A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. C'è un quartiere a Reggio Calabria che è a metà tra la via dei palazzi eleganti e quella dei fortini inespugnati. C'è una zona, nella punta più estrema dello Stivale, dove la faccia presentabile della città quasi tocca quella più oscura. Da una parte l'Andrangheta, la malavita organizzata più potente al mondo, con i suoi affari, i suoi clan, le sue regole e i suoi soldi. Dall'altra le case dei professionisti, gli uffici delle istituzioni, le regole dello Stato. In mezzo, Contrada Armacà, che diventa allora emblema di una realtà dove tanto il bianco quanto il nero sfumano molto spesso nel grigio. Nel grigio dei medici, dei commercialisti, degli avvocati al soldo, dei boss, dei giudici che si vendono per qualche favore e delle donne, di imprenditori che pensano di fare patti con i clan e poi ne restano schiacciati, di una realtà che di questa ambiguità ha fatto la sua cifra e la sua forza. Qui si consumano delitti mascherati da suicidi, qui succede che si tolga la vita con l'acido la funzionaria di un comune poi sommerso da debiti e scandali, qui le bombe e i bazooka ai magistrati sono minacce ma anche messaggi. Qui i servizi segreti si muovono e si sfidano a volte nel solco ciascuno della propria cordata. Qui l'incanto del lungomare di quello che D'Annunzio chiamò il chilometro più bello d'Italia si tramuta nell'aggressività di palazzoni mai finiti e sempre pronti ad ulteriori rialzi. Qui l'Andrangheta continua ad avere il suo quartier generale nonostante la sua dimensione internazionale. Qui, a Contrada Armacà, scelta da Gianfrancesco Turano, collega dell'Espresso, come simbolo e titolo del suo racconto dentro quel grigio gravido di ombre e sospetti di cui vive Reggio Calabria, la città da cui lui stesso proviene. Siamo nella zona nord di Reggio Calabria, al confine tra quello che è la parte bene di Reggio con i suoi lidi, i suoi circoli e la parte meno bene, cioè quella che va nel quartiere di Archi, che è l'epicentro un po' dell'Andrangheta locale, un'organizzazione criminale che è partita da piccole attività di contrabbando 40 anni fa per diventare quello che oggi è considerato come il maggiore pericolo criminale a livello internazionale. Quindi una zona intermedia, una sorta di zona grigia, che è anche un po' la cifra della direzione che molte inchieste sempre più spesso stanno avendo nei confronti dell'Andrangheta, che è proprio quella della zona di confine tra quello che è l'area strettamente e profondamente ndranghetista, come il quartiere Archi, e quella che è invece la zona fette della società che sono più distanti dall'Andrangheta ma che comunque hanno con essa un punto intermedio grigio, appunto, come la Contrada Armacà. Ricordiamo, il quartiere Archi è il fortino di molti dei boss storicamente, là ci sono state anche alcune delle confische più complicate. Può essere paragonata, secondo te, anche un po' alla Scampia di Napoli o ad alcune zone laddove anche lo stesso ingresso, delle forze dell'ordine non sempre è avvenuto facilmente? In parte sì, sicuramente esiste un controllo del territorio che è paragonabile a quello di Scampia, però la cifra è quella che tu identificavi nel colore del grigio, un grigio che non sta soltanto a significare dei rapporti confusi, tra quella che è la parte della buona borghesia cittadina e la parte della borghesia criminale, quanto piuttosto un discorso che travalica poi i confini di Reggio e della Calabria, è una confusione che si crea tra istituzioni e criminalità, perché poi il problema dell'Andrangheta non è tanto il fatto del traffico, della grande ricchezza che viene dal traffico della cocaina, quanto piuttosto dalla forza che è stata elaborata nel corso degli ultimi 4 decenni, che l'Andrangheta ha ottenuto da una sorta di legittimazione dello Stato. Quindi, se possiamo dire, in Sicilia si parla di una trattativa tra lo Stato e Cosa Nostra, in Calabria questa trattativa c'è stata e si è conclusa felicemente, se così possiamo dire, in pochissimo tempo, per cui il grigio di questa zona è una confusione nella quale poi le istituzioni hanno in realtà tradito i cittadini e più di una volta parte di queste istituzioni, parti importanti anche di queste istituzioni, si sono dovute hanno chiamato, hanno convocato, come ha detto un alto magistrato, hanno convocato questa società di servizi criminali per tutta una serie di lavori sporchi che dovevano essere conclusi. Ora, Reggio è anche la città intorno sulla quale gravita un porto di valore internazionale come il porto di Gioia Tauro, che ha un valore che va ben al di là del traffico della cocaina, perché è stato ed è diventato negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo decennio, un luogo fondamentale per la strategia geopolitica dell'Italia e dei paesi occidentali. Questo ovviamente per la sua posizione che proietta il porto di Gioia Tauro sullo scacchiere del Mediterraneo, con tutto quello che abbiamo visto in termini di ribellioni in Nord Africa e poi in Siria. Certo. Soltanto che il traffico di droga spesso emerge, viene con sequestri e confische, il traffico di armi invece quasi mai. Resta sotto traccia nelle grandi distese di container che passano per il porto di Gioia Tauro. Come ricordavi, l'andrangheta convocata a volte da fette importanti delle istituzioni anche per prestare i suoi servizi, e le cronache degli ultimi anni di Reggio Calabria e della Calabria, tutto questo viene raccontato con grande evidenza in Contrada Armacà, laddove appunto c'è un racconto di queste fette delle istituzioni significative, che non escludono neanche la magistratura, che finiscono con l'essere mi verrebbe da dire con un termine siciliano, mascariate con la malavita organizzata, cioè in qualche modo compromesse con la malavita organizzata. Questo è stato raccontato in decine di inchieste, poliziotti arrestati, magistrati arrestati, uomini dei servizi segreti arrestati, stati con giri diciamo non ben definiti, uno sviluppo di vicende che parte avendo sullo sfondo un fatto non ancora mai del tutto veramente chiarito, come il caso Fallara. I nomi nel libro sono diversi, ma è facilmente riconoscibile nelle vicende che racconti alcuni dei protagonisti di grandi fatti di cronaca. Perché hai deciso quel momento cronologico ben preciso di Reggio, che è stato un momento di passaggio abbastanza significativo? Perché quel suicidio è stato un po' la fine di quello che era stato un sogno, il sogno del modello Reggio, il sogno di una città che smetteva di essere la capitale dell'andrangheta e diventava una sorta di piccola Barcellona del Mediterraneo meridionale. Allora, in realtà quel sogno era un sogno di cartapesta, fatto di veline, fatto di manifestazioni effimere, che poi ha lasciato dietro degli strascichi molto pesanti, un comune che è stato commissariato per infiltrazioni mafiose, una situazione contabile che ha costretto e che costringe i cittadini di Reggio a pagare delle tasse molto alte in questo momento. E quindi ho creduto di partire da lì, perché quella è stata quel suicidio, è stata la caduta di questa illusione, di questo velo che ha poi messo in luce una realtà così com'era, così come la conosciamo adesso, una realtà dove tu parlavi di mascariamento. Qui c'è qualcosa di ancora diverso, nel senso che non è soltanto il poliziotto corrotto, qui c'è una dialettica, come la definiva Enzo Macri, che è l'ex procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, una dialettica in cui le istituzioni convocano gli uomini delle 'ndrine perché sono bravi a fornire quei servizi, e poi lui aggiungeva giustamente che è esattamente quello che hanno fatto gli imprenditori in Lombardia e in Piemonte quando si sono trovati in difficoltà. Quindi sostanzialmente ci sono una serie cioè l'andrangheta è un'organizzazione che brilla per la sua efficienza, salvo che poi, una volta che ha messo il piede dentro la porta ed è entrato in quell'impresa, in quell'istituzione, finisce per buttare fuori i legittimi titolari e diventare lei stessa padrona. Come ad esempio il caso della società che forse a cui tu facevi forse riferimento, ma ce ne sono anche altre, la Blue Call di Milano, aveva testimoniato una società florida di call center milanese che nel momento in cui si rivolge a degli imprenditori, secondo loro appunto calabresi, per avere un finanziamento finanziamento economico in un momento di difficoltà viene totalmente stravolta e i titolari vengono totalmente estromessi dalla gestione stessa della società. Così succede per le società, ma così succede anche per pezzi delle istituzioni. Questo è un po' un meccanismo che per la 'Ndrangheta più che per altre, ma si ritrova anche in altre organizzazioni malavitose, è un meccanismo che un po' si ripete, diciamo. Quello che sembra emergere ancora di più, e le tinte fosche sono dipinte con tutta la loro anche ferocia in contrada Armacà, è questa incapacità, diciamo, di potersi orientare tra il buono e il cattivo, per cui tu esplicitamente dici che a Reggio ci sono anche i magistrati che si fanno la guerra tra loro, e non è soltanto una guerra come avviene in molte procure d'Italia, una guerra, diciamo così, di contese a botte di carte bollate, perché qui c'è stato un momento in cui a Reggio Calabria ci sono state anche le minacce e le bombe ai magistrati. Ecco, questa componente qui, anche quella della situazione anche di difficoltà nei rapporti con l'autorità giudiziaria a Reggio Calabria, fa anche questa un po' la differenza rispetto ad altre città, diciamo, fortino delle rispettive malavite organizzate. Sì, perché vedi, a Reggio ci sono state le bombe, ci sono stati i bazooka, ci sono state le macchine di esplosivo fatte trovare prima della visita del Presidente della Repubblica Napolitano. Sono state attivate, cioè, una serie di misure, come dire, delle misure minatorie, ma non si è mai arrivato allo scontro e alle bombe come è stato in Sicilia, perché questo è molto tipico della 'Ndrangheta, che preferisce il profilo basso, preferisce inserirsi, insinuarsi in maniera molto soft, e quando deve minacciare sa che non è vantaggioso fare saltare in aria le autostrade, perché questo comporta una luce mediatica molto sgradita. Questo ovviamente si inquadra in un sistema che, giustamente ricordavi tu, è molto presente anche in altre procure del nord, dove ci sono delle guerre, delle ambizioni tra gruppi all'interno delle procure, ma posso fare lo stesso discorso per la politica. Considera che la 'Ndrangheta, oltre a fare quello che ha fatto nella Blue Call, si è offerta a assessori e politici piemontesi e lombardi per raccogliere voti, quindi ha fatto questa politica di lenta infiltrazione, dopodiché questi si sono trovati il lupo in casa quasi senza accorgersene. Questa è un po' la dimensione caratteristica dell'organizzazione. Dietro lo schermo di un romanzo, dove i personaggi però sono tutti perfettamente riconoscibili, i fatti tutti veri e in alcuni casi anche i nomi rimasti fedeli, c'è in contrada Armacà il racconto senza inibizioni degli intrecci vischiosi e pericolosi della 'Ndrangheta. Ed è per questo che questa puntata di A ciascuno il suo è un po' diversa dal solito e solo apparentemente racconta un romanzo. In realtà, come sentiremo ancora nella seconda parte, va dentro un sistema di potere, compreso quello degli 007, che negli anni ha fatto della 'Ndrangheta la mafia più potente al mondo. A ciascuno il suo. Alla fine è stato un tribunale, quello amministrativo regionale, ad imporre il ritorno al voto della Calabria. Alla fine, ancora una volta, è stato un giudice a risolvere dopo mesi un impasse politico-giudiziario, quello in cui la regione più povera d'Italia, ma feudo della mafia più ricca al mondo, è precipitata dopo la condanna dell'ex governatore regionale Scopelliti per fatti risalenti però al suo periodo da sindaco di Reggio Calabria. È in quello stesso momento che si tolse la vita a Orsola Fallara, dirigente del settore finanze e tributi del comune, suicidio dai contorni mai fino in fondo chiariti, che porta con sé i segreti di cui la funzionaria era depositaria e gli scandali intorno ai bilanci del comune e alla sua autoliquidazione da quasi 1 milione. Non a caso è da questo momento emblematico nella storia recente di Reggio Calabria, primo capoluogo di regione sciolto per infiltrazioni, che parte, per i caratteri di chiare lettere, il racconto di Contrada Armacà, viaggio nelle ambiguità, nei compromessi e le contraddizioni della casa madre dell''Ndrangheta, capitale contesa, dice Gianfrancesco Turano, anche dai servizi segreti. Reggio è una capitale di servizi segreti. Questo può sembrare paradossale per una città che è sempre stata considerata periferica, ma è una capitale fin dai moti di Reggio, quindi stiamo parlando del 1970 e 71, quando a Reggio si scrive quella che è una delle pagine della strategia della tensione, diciamo inquadrata in quello che era il golpe borghese, e da quel momento Reggio diventa un caposaldo dei servizi segreti. Uno dei il personaggio, il protagonista di questo libro, in un passaggio fa una sparata contro questo aggettivo, servizi segreti, associazioni segrete, c'è un'intolleranza, esprime un'intolleranza verso la parola segreto, perché la parola segreto è quella che ha avvelenato questa città ed è quella che ha avvelenato l'Italia, perché noi non dobbiamo mai dimenticare quello che è stato per l'Italia tutta una serie di vicende traumatiche maturate appunto a partire dalla strategia della tensione, tutta una serie di vicende che sono rimaste segrete. Allora, la figura del commercialista che ricordavi tu, perché Zumbo è un commercialista, è una figura simbolo, perché quest'uomo che si muove un po' in questa zona fatta di massoneria, di associazionismo segreto, di servizi segreti, poi viene intercettato mentre racconta e commenta le sue attività con Peppe Pelle, detto Gambazza, Bovallino, uno dei mamma santissima dell''Ndrangheta della Ionica, e ne emerge un quadro molto forte, verso un quadro di una città che è dominata appunto dai servizi segreti. Perché Reggio sia dominata dai servizi segreti l'abbiamo spiegato poco prima, perché è una città strategica, una città che per la sua posizione, soprattutto per la posizione del porto di Gioia Tauro nel Mediterraneo, ha assunto un ruolo in cui i servizi segreti civile e militare sostanzialmente dominano la situazione, la dominano attraverso l'associazione che ha il maggiore controllo del territorio, che è l''Ndrangheta, e questo spiega perché ci sono poi tutta una serie di contrattazioni, perché poi la trattativa non è data una volta per tutte, la trattativa si fa passo passo, di contrattazioni tra lo Stato e gli uomini di vertice dei servizi criminali, che decidono quali sono le partite di droga che devono essere sacrificate, quali sono gli uomini che devono essere sacrificati. Quindi ognuno è un burattino di qualcun altro in questo contesto. Ecco, quanto pesa, e questo, tutto questo resta sullo sfondo del tuo racconto, ma quanto pesa questa guerra di servizi segreti nello sviluppo e anche nel potere che l''Ndrangheta ha progressivamente acquistato? Voglio dire, cioè, le vicende definite a volte in modo semplicistico inquietanti, successe a Reggio negli ultimi anni, sembrano volta per volta avere anche questo tipo di bollino. Pesa molto, perché un altro dei personaggi che viene citato per nome e cognome nel libro, che è il comandante Balestrieri, ex iscritto alle liste della loggia P2 di Licio Gelli, è coinvolto, come dire, nel controllo del porto di Gioia Tauro, è uno che ha scritto delle cose pesantissime in dei memoriali che ha pubblicato anche sul web, che non sono mai stati contestati. Lui a un certo punto doveva essere arrestato, ma se ne è tornato tranquillamente a Washington dichiarando di essere un agente della CIA. Quindi da queste cose che lui dice si capisce fino a che punto poi Reggio sia in realtà il sistema Italia, un sistema in cui i rapporti geopolitici vengono prima di tutto e passano come una schiaccia sassi su tutto il resto, sui rapporti umani e sui diritti dei cittadini, sui diritti che i cittadini avrebbero e credo che abbiano di conoscere la verità così per com'è. Senza dimenticare, tra gli altri vicende appunto inquietanti degli ultimi anni, che però caratterizzano e distinguono appunto le tante contrada Armacà di Reggio Calabria da quelle di altre città pur attraversate dal crimine organizzato, una vicenda come quella del pentito Antonino Rogiudice è ugualmente esemplificativa di questo ambiente che hai raccontato e che stiamo raccontando, del pentito che prima appunto collabora, confessa crimini terribili, se ne attribuisce la paternità anche proprio di quelle minacce ai magistrati, poi sparisce, poi fa avere memoriali di attacco ad altri magistrati, poi viene riarrestato, insomma una vischiosità che diciamo che coinvolge tutto e da cui si ha volta per volta paura di essere inghiottiti. Ecco, ma perché tu hai deciso di conservare il nome autentico di questi personaggi che hai citato, mentre negli altri casi sono facilmente riconoscibili i personaggi perché appunto sono tutti fatti veri, ma hanno un'identità diversa? Ma è abbastanza semplice. Io ho utilizzato i nomi veri di alcuni personaggi, soprattutto dei protagonisti dell''Ndrangheta, perché li ho trattati come dei soggetti della cronaca. In altri casi avevo bisogno di essere libero di inventare, e quindi in quei casi non mi sembrava giusto, non mi sembrava corretto mantenere i nomi della cronaca. Secondo me un cronista deve essere estremamente fedele ai fatti che racconta e deve essere estremamente preciso. Un narratore ha bisogno di più spazio per manovrare, quindi nel momento in cui la narrazione ha prevalso, io ho preferito non usare i nomi veri, perché non sarebbe stato corretto, ritengo. In chiusura, Gianfrancesco, tu sei appunto vivi da tanti anni lontano dalla Calabria, ma hai origini calabresi e infatti anche il tuo racconto ogni tanto, diciamo, è impreziosito da espressioni dialettali o termini appunto che provengono da quelle terre e che fanno capire anche proprio la conoscenza profonda di certe dinamiche, di certi rapporti, di certi codici che sono sempre fondamentali per raccontare questi luoghi. In chiusura volevo chiederti che situazione c'è ora a Reggio Calabria. Tu appunto racconti il grigio di Contrada Armacà. Ecco, com'è la situazione in questa grande Contrada Armacà, che forse è l'intera città di Reggio? Ma adesso c'è una situazione politica in forte evoluzione, perché a ottobre si voterà per il prossimo sindaco dopo 18 mesi di commissariamento. E poi ci sono anche le elezioni regionali. Esatto, e poi ci saranno le elezioni regionali, quando il presidente facente funzione della regione si deciderà a mandare a casa i consiglieri, cosa che come dire, sembra impegnare più tempo di quanto necessario. Quindi c'è una situazione nella quale alle ultime primarie del Partito Democratico hanno votato 18.000 su un corpo elettorale di 110.000, credo che sia un record assoluto in Italia. Quindi questo dimostra, ovviamente hanno votato anche non elettori del PD, come è possibile fare alle primarie, ma questo io credo che sia un segnale molto preciso di un desiderio fortissimo di tornare quantomeno, se non alla normalità, a una situazione nella quale c'è un corretto rapporto di rappresentatività tra il cittadino e colui che verrà eletto. Io da reggino mi auguro che questo succeda a partire da ottobre, perché questa è una città che appunto ha avuto troppi segreti e poca trasparenza. Spero che si riavvii un percorso che porti sempre più fuori dal grigio e sempre più verso il bianco o il nero, perché nel momento in cui il bianco e il nero sono distinti è più facile scegliere. Quindi un segnale di un passo in avanti, tu vedi? Sì. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di A Ciascuno il Suo, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog Storiacce, dove trovate anche un post dedicato a Contrada Armacà. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.